We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back. It's coming, football's coming home, it's coming. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember peanuts on a shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt never stopped me dreaming. Ciao a tutti, benvenuti al secondo podcast di Football Coming Home. In questo secondo podcast parleremo di un uomo che, se dovessimo descriverlo, lo descriveremmo in maniera totalmente negativa, ovvero antipatico, irriverente, spocchioso, insopportabile, uno che non ha peli sulla lingua. E nonostante questa descrizione totalmente negativa, quello che quest'uomo è riuscito a fare nel calcio, non solo inglese ma nel calcio mondiale, è qualcosa di totalmente straordinario, di totalmente positivo. È il primo allenatore, stiamo parlando degli anni inizio anni 70, metà anni 70, il periodo degli anni 70, insomma, è il primo allenatore che fino ad allora gli allenatori non parlavano, dicevano sì e no due parole. Brian Clough è un fiume in piena, uno che si espone, che a cui piace essere intervistato, a cui piace l'attenzione su di sé, è praticamente il primo allenatore che a livello mediatico fa clamore, fa rumore. José Mourinho ha preso molto molto molto da lui, anzi se non tutto da lui, ed è un allenatore che ha fatto qualcosa di irripetibile. Infatti quest'anno ricorre il quarantennale dalla sua più grande impresa. È un'impresa straordinaria, senza pari. Credo che neanche l'impresa di Claudio Ranieri con Leicester si possa avvicinare a quello che Brian Clough ha fatto al Nottingham Forest. Appunto, stiamo parlando di Brian Clough. Chi è più grande di me, o quelli della mia età, capiranno di chi sto parlando. Chi è più giovane cercherò di spiegarvelo nel modo migliore possibile, anche se ci sono stati molti molti racconti su di lui quest'anno che sono stati molto esaustivi e molto molto chiari per spiegare la grandezza di quest'uomo. Quindi nel podcast di oggi di Football Coming Home parleremo di Brian Clough. We'll be right back. prima di diventare uno degli allenatori più importanti della storia del calcio, Brian Clough è uno degli attaccanti più prolifici dell'Inghilterra degli anni 60, del calcio inglese degli anni 60. Tra Middlesbrough e Sunderland segna la bellezza di 252 gol in 272 partite. È praticamente regolarmente convocato dalla nazionale inglese e si appresta a essere nel gruppo che andrà ad affrontare il mondiale del 66, quel mondiale che la nazionale inglese vincerà e che ancora tutt'oggi è l'unica vittoria della sua storia. E allo stesso tempo è molto ricercato dai grandi club inglesi, Liverpool e Manchester United se lo contendono, però succede qualcosa che mette fine ai sogni di gloria del giovane Brian Clough, ovvero nel febbraio del 66 ha uno scontro di gioco con il portiere del Bury, si fa male alla caviglia e questo infortunio lo porta a ritirarsi dal calcio giocato. Si è passati dal toccare il cielo con un dito quando sei al top della tua carriera alla fine, alla chiusura di tutto. E quella domanda che tutti i calciatori si fanno sostanzialmente alla fine della carriera, Brian Clough se la fa subito, presto, ovvero e adesso cosa faccio? Lui è un uomo di spirito, è un uomo che viene dalla working class dell'Inghilterra, dal nord-est di quel periodo, ed è uno che non si abbatte mai, sa che vivrà di calcio e sa che comunque allo stesso modo, non giocando a calcio, stare sul rettangolo verde sarà comunque la sua vita. Decide che diventerà allenatore e a 28 anni diventa prende il patentino di allenatore, che è praticamente un record ancora tutt'oggi imbattuto. Diventa il più giovane allenatore della storia del calcio britannico e si fa affiancare da un suo ex compagno di merende, ovvero Peter Thiel, che è l'opposto del carattere di Brian Clough, e forse perché sono veramente gli opposti andranno d'accordo insieme, l'uno completa l'altro. Peter Thiel è una persona molto educata, a modo, però è anche un grande talent scout, è uno che riesce a scovare grandi talenti ed è anche un ottimo tattico. Il primo ingaggio che loro ottengono è un ingaggio difficilissimo, ovvero una squadra praticamente sull'orlo del fallimento. Stiamo parlando degli Earthbulls, che erano praticamente in fondo all'ultimo posto della classifica della terza divisione, ovvero la nostra Serie C. Vengono ingaggiati dal presidente, quel presidente gli disse: guardate, la squadra è in bancarotta, non vi darò una sterlina, se volete fate un'esperienza. Prendetela come un tirocinio questa esperienza agli Earthbulls, perché l'anno prossimo non iscriverò la squadra al campionato. Con molti giocatori di quella rosa, per via degli stipendi non pagati, ormai andati via, Peter Thiel si mette alla ricerca e inizia a setacciare il territorio, portando giovani calciatori a quella squadra e facendo ripartire questa squadra dall'ultimo posto fino al primo posto. C'è una remontata impossibile. Da quando Brian Clough va a sedere su quella panchina, gli Earthbulls praticamente vincono tutte le partite, e dal fallimento si passa alla promozione in seconda divisione. Il calcio che viene proposto è un calcio moderno, non è un calcio fisico. Negli anni 60, ma anche nei 70, il calcio in Inghilterra era molto molto fisico. Invece Clough fa verticalizzare le squadre, fa correre i giocatori, prende giocatori più esili rispetto a quelli massicci che stanno nei centrocampi delle squadre inglesi degli anni 70, e questo porta a vincere tutte le partite. Si vince di velocità, si vince di astuzia, si vince di ingegno. Con le tattiche di Peter Thiel, diciamo, l'organizzazione e l'idea di gioco di Brian Clough, gli Earthbulls raggiungono la seconda divisione in maniera isperata. Quella squadra si salverà dalla bancarotta e si iscriverà al campionato di seconda divisione. Ma sono tante le squadre che si sono accorte di questo giovane allenatore con delle idee nuove di calcio, e l'anno successivo vengono ingaggiati dal Derby County. E Derby è la prima fondamentale tappa che porta Brian Clough a diventare un grande tecnico. Driving. l'idolo, l'allenatore cui prendeva, da cui prendeva spunto Brian Clough era Don Revie. Don Revie, che praticamente è uno degli allenatori più importanti della storia del calcio inglese, l'allenatore del grande Leeds United, che è a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, praticamente in Inghilterra vince tutto quello che c'era da vincere, ed era l'allenatore che lui prendeva come modello. Ovviamente erano totalmente diversi, perché il Leeds e il modo di mettere in campo le squadre di Don Revie era praticamente l'opposto, però lui vedeva in Don Revie un vero e proprio idolo nel modo di comportarsi, nel modo di essere, e a Don Revie deve la sua decisione del voler diventare un allenatore. Guardando Don Revie, lui ha deciso che la sua vita era quella di allenare una squadra di calcio. E siamo nel 1968, c'è il sorteggio dell'FA Cup. L'FA Cup è la più antica competizione calcistica del mondo, una competizione dove c'è il sorteggio integrale. Questo significa che la squadra di divisione potrebbe ritrovarsi in un sorteggio a giocare in casa, nel piccolo stadio di casa, contro il top club di livello mondiale tipo Arsenal, Liverpool, Manchester, insomma Chelsea. E ancora tutt'oggi è così, e lo era all'epoca. E all'epoca tutti volevano giocare contro il Leeds United, perché per i presidenti di quelle squadre incontrare il Leeds United significava avere grossi incassi, e per gli allenatori significava incontrare l'allenatore più forte. E nel sorteggio dell'FA Cup del 68 il Derby County viene accoppiato al Leeds United, e Brian Clough è felice perché finalmente conoscerà quello che è il suo mito, il suo idolo, il suo punto di riferimento. E il presidente del Derby invece festeggia perché sa che avrà un incasso stratosferico da quella partita. Insomma, Brian Clough, oltre che a preparare la squadra, si occupa in prima persona a sistemare lo stadio per presentarsi nel miglior modo possibile a Don Revie e al Leeds United. Arriva il giorno della partita, Brian Clough è tirato al lucido, aspetta davanti lo stadio il Leeds United, che si ferma 100 metri prima dallo stadio in una scaramanzia che faceva Don Revie prima di giocare le partite di Coppa. Scendono dal pullman Don Revie e i giocatori del Leeds, Brian Clough gli va incontro, solo che nella calca Don Revie tira dritto e Brian Clough non riesce a presentarsi. Cerca di fare la stessa cosa all'ingresso delle squadre in campo, ma Don Revie non saluta Brian Clough, non lo vede proprio nella calca, e si va a sedere sulla panchina. Brian Clough dirà: vabbè, sorseggeremo qualcosa insieme dopo la partita, perché era uso dopo le partite di Coppa, ma anche di campionato, che i due allenatori sorseggiassero un bicchiere di whisky o un bicchiere di vino insieme nell'ufficio dell'allenatore della squadra di casa. Invece al fischio finale della partita, Don Revie, ovviamente risultato scontato, il Leeds vincerà 2-0, Don Revie tira dritto, non saluta nessuno dello staff del Derby County e non saluta neanche Brian Clough, si mette sul pullman con la squadra e ritorna al Leeds. Brian Clough si sente offeso perché si sente sottovalutato da Don Revie, e sente che lui non gliene poteva fregare di meno, ma soprattutto che gli ha mancato totalmente di rispetto. E quella sera, a sorseggiare quel vino comprato a caro prezzo da Brian Clough da offrire a Don Revie, c'è in quell'ufficio c'è Peter Thiel, che cerca di calmare l'ira appunto dell'allenatore del Derby County, che praticamente sbraita dicendo: dobbiamo vincere titoli, dobbiamo andare in Europa, dobbiamo essere la migliore squadra inglese, eccetera eccetera eccetera. Peter Thiel cerca di farlo ragionare dicendogli: guarda, noi siamo una squadra di seconda divisione, stiamo in fondo alla seconda divisione, no, ma noi dobbiamo risalire subito anche da quest'anno, nella prossima finestra di mercato tu mi devi prendere i migliori giocatori possibile da ingaggiare, perché noi dobbiamo andare in prima divisione e dobbiamo rincontrare il Leeds United e lo dobbiamo umiliare. E questa sorta di questo pensiero deciso di Brian Clough porta Peter Thiel a setacciare il mercato e a prendere ottimi giovani giocatori, mixandoli con giocatori d'esperienza. Il Derby County dal quintultimo posto della seconda divisione arriva al secondo, e quell'anno andrà dopo tanti anni in prima divisione. Così Brian Clough ha l'opportunità di incontrare vis-à-vis Don Re. Comes around just about 5 feet four. I'm from my head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. She make me feel all right. And her name is G. I primi tempi del Derby County in Premier League erano difficili. Non si poteva pretendere che una squadra che arrivava dalla seconda divisione potesse in qualche modo affrontare i campioni d'Inghilterra alla pari. Infatti tra il Derby County e il Leeds United il confronto finì sempre a favore del Leeds, con punteggi tennistici. Però nel giro di pochi anni Brian Clough praticamente riuscì a mettere su una squadra forte, un mix tra gioventù e gente d'esperienza, che riuscì nel 72 finalmente ad ottenere quella vendetta che tanto desiderava il tecnico britannico nei confronti del suo collega del Leeds United. Ovvero nel 72 il Derby County, battendo il Leeds United ovunque, sia in coppa che in campionato, si laurea campione d'Inghilterra, e Brian Clough è l'allenatore sotto i riflettori, l'allenatore più importante. Vendetta è stata compiuta quel giorno a Derby, dove Leeds United, dove Don Revie gli mancò di rispetto, è stato vendicato. Però l'ossessione verso l'allenatore del Leeds United da parte di Clough è qualcosa di che non riesce ad andar via. L'anno successivo, da campione d'Inghilterra, il Derby County va a giocare la Coppa dei Campioni, e fa una discreta Coppa dei Campioni, perché praticamente riesce ad arrivare in semifinale, dove affronterà la Juventus. Si gioca la partita d'andata in Inghilterra 0-0 il risultato, e si gioca una settimana dopo il ritorno. Però tra le due partite c'è una partita di campionato, e che partita di campionato è? Leeds United Derby County. Il presidente del Derby, visto che ormai il campionato è un obiettivo difficile da raggiungere, sa che l'obiettivo primario è vincere la Coppa dei Campioni, perché già da allora permetteva determinati introiti e determinate entrate, che per una squadra che qualche anno prima era nella Serie B inglese significava tanta roba. E così nel prepartita di Leeds United Derby County il presidente del Derby scende negli spogliatoi e implora Brian Clough di non schierare i giocatori titolari in vista della partita da giocare a Torino con la Juventus, una partita che valeva la finale della Coppa dei Campioni. Abbiamo parlato di Clough come una persona prima difficile con cui parlare e soprattutto trattare. Non si può mediare con un uomo come lui, e alla fine non dà ascolto al presidente del Derby County. Il Derby gioca contro il Leeds United con tutti i titolarissimi in un campo pesante dove piove a dirotto, e in quella partita 5 dei titolari si fanno male e si infortunano e non potranno essere poi schierati nella partita decisiva della semifinale di ritorno contro la Juve. Ovviamente la Juventus andrà in finale, vincerà la partita contro il derby, visto che il derby aveva molte defezioni a causa degli infortuni, e questo porterà alla fine del rapporto appunto tra Brian Clough e il Derby County, ed è la fine del primo grande capitolo. E finisce male perché loro praticamente litigano con i dirigenti, i presidenti. Brian Clough ha l'appoggio di tutta la gente del Derby County, di tutti i tifosi, perché è lui che ha preso il Derby County e l'ha reso un top club inglese. Però nonostante questo viene fatto fuori, viene silurato sia lui che Peter Thiel in malo modo. Down to his knee, got to be a Clough non era un allenatore da top club, era un allenatore, probabilmente se fosse stato un allenatore da top club non avrebbe avuto vita facile. Lui era un allenatore da avventure, lui voleva prendere le piccole e medie squadre e farle rendere ogni oltre più rosea aspettative. E se guardiamo nel suo complesso, lui alla fine ci è riuscito. E dopo il Derby County, il presidente del Brighton, Owe Albion, squadra che oggi milita in Premier League, all'epoca militava nella terza categoria, li ingaggia spendendo uno sproposito per la categoria dove si trova all'epoca la squadra, ovvero la terza divisione, convinto che Till e Clough porteranno la propria squadra, la sua squadra, al top, come è successo con il Derby County. Gli regala tutto, gli dà un ingaggio faraonico, casa di fronte al mare, perché Brighton insomma è una sorta di Rimini del sud, e li manda anche in vacanza a Mallorca per riposarsi prima di iniziare il lavoro con il club. Ma proprio quando sono in vacanza succede qualcosa di inaspettato, ovvero la nazionale inglese non si qualifica per i mondiali di Germania 74, ed è un risultato negativissimo per il calcio inglese, è una sorta di vergogna per la stampa, e il CT della nazionale inglese viene ovviamente fatto fuori, e la nazionale inglese, la federazione, decide di affidare la panchina della nazionale inglese, indovinate un po' a chi? A Don Revie, che lascia il suo amato Leeds United e va ad allenare la nazionale inglese. Così rimane vacante la panchina del Leeds United. I dirigenti del Leeds United sanno perfettamente che devono chiamare un solo allenatore per sostituire Don Revie, e quell'allenatore è proprio Brian Clough. After all the tracks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Era impossibile dire di no a quel Leeds United. Brian Clough era un uomo che aveva un'ambizione esagerata, probabilmente esasperata, ma anche eccessiva a un certo punto. E Peter Thiel cerca di convincerlo a non andarci al Leeds United. Gli spiega: quella è una squadra di giocatori ultra trentenni che hanno già dato quello che potevano dare, hanno già vinto quello che potevano vincere, è una squadra a fine ciclo, non faremo una bella figura. Però Clough non lo sta ad ascoltare, i due litigano, si lasciano male, e finisce l'amicizia e finisce il loro storico, diciamo, periodo insieme lavorativo. Clough si avvia da solo verso Leeds, e il giorno della presentazione a Elland Road lui preferisce non andarci allo stadio, nonostante c'erano giornalisti che lo aspettavano. Lui va a rilasciare un'intervista alla TV locale, e rilascia un'intervista nella quale parla male di Don Revie, parla male del calcio che faceva giocare Don Revie alla propria squadra, parla male dei giocatori che poi andrà ad allenare, dicendo che giocavano sporco, che erano scorretti, che giocavano un calcio in cui facevano infortunare molti giocatori, che incutevano sudditanza nei confronti degli arbitri, insomma, che non giocavano lealmente e che le vittorie che avevano ottenuto erano pari a zero. Questa intervista praticamente suscita molto imbarazzo nella dirigenza, e non è il modo migliore per presentarsi ai prossimi suoi giocatori. E infatti la squadra non lo segue per nulla, anzi gli giocano contro, si fanno espellere, si fanno figuracce su figuracce, e l'avventura di Brian Clough al Leeds United durerà soltanto 44 giorni. E c'è un film che parla appunto di questi 44 giorni, che si chiama Il maledetto United, che vi invito a guardare, che parla appunto dell'esperienza più nera di questo grande allenatore. E dopo 44 giorni era inevitabile che venne esonerato. E come il giorno della presentazione, lui va a rilasciare un'intervista alla TV locale, e lì trova Don Revie in maniera totalmente inaspettata. Gli fanno una sorta di imboscata, e il confronto tra i due è un confronto tra due modi di vedere la vita, non solo il calcio e lo sport, totalmente diversi. È un muro contro muro molto interessante, perché i due litigano molto molto forte a livello verbale, ed è una delle, ed è uno dei confronti televisivi più visti nella storia del Regno Unito, ed è uno dei confronti televisivi anche più studiati da chi fa giornalismo. Ovviamente Don Revie distrugge Brian Clough dicendo che lui aveva distrutto tutto quello che aveva costruito per il Leeds United nel giro di 8 anni come allenatore. Brian Clough invece nega tutto, gli rinfaccia di essere stata una persona irrispettosa, gli ricorda che ai tempi del Derby County lui gli è mancato di rispetto. Insomma, si litigano, non si capiscono, è come due mondi totalmente diversi che si incontrano e che si scontrano. Però alla fine Clough dice a Don Revie: adesso tu sei allenatore della nazionale inglese, io sono un disoccupato, però vedremo fra 5 anni dove sarai tu e dove sarò io. Don't be unkind, no way. Hey man, I can't take you this time, no way. Il capolavoro di Brian Clough è l'ultimo capitolo della sua carriera di allenatore, ovvero il Nottingham Forest. Dopo l'esperienza al Leeds United viene chiamato al Nottingham Forest. Arriva a Nottingham, vede la città, vede lo stadio, si rende conto che è l'ambiente perfetto, è una città operaia, è una città dove la tifoseria, a prescindere dai risultati, segue e sostiene e spinge pur di sostenere la propria squadra di calcio. E chi se ne frega che se si è in terza categoria, lui vuole ripartire da zero e sa che in questo ambiente manca solo una persona, ovvero Peter Thiel, per cercare di creare qualcosa di importante. Lui più volte cerca di riconciliarsi con Peter Thiel, ma non ci riesce. Solo dopo tanti tentativi di chiedergli scusa, lui riesce a riconciliarsi con il suo amico secondo, il suo tattico, il suo talent scout. Lo fa inginocchiare e gli fa chiedere scusa. Dopodiché accetta di andare a Nottingham. E a Nottingham succede qualcosa che nella storia del calcio probabilmente non succederà mai più, ovvero una squadra che dalla terza divisione va in Premier League e che dalla Premier League poi vincerà questo campionato e vincerà poi due Coppe dei Campioni. Brian Clough crea una squadra di giocatori del posto, giovani, forti, e soprattutto gli aggiunge giocatori di esperienza di un certo livello. Nel giro di 4-5 anni diventa campione d'Inghilterra nel 1978, e dopo questo record, i record continuano, perché va a giocare la Coppa dei Campioni, anche se all'epoca la stampa scriveva: in Coppa dei Campioni faranno delle figuracce, non hanno esperienza, verranno subito eliminati al primo turno. E c'è un aneddoto carino da raccontare: i giocatori del Nottingham Forest erano eccitati al momento del sorteggio, perché erano felici, perché sarebbero andati a giocare all'estero a rappresentare il Nottingham all'estero, e al sorteggio tutti dicevano: chissà dove andremo, se andremo a Torino, se andremo a Madrid, se andremo a Monaco, se andremo a Lisbona. E invece vengono sorteggiati insieme al Liverpool, che partecipò a quella Coppa dei Campioni da campione in carica, perché vinse la Champions l'anno prima. E il doppio confronto con il Liverpool fa capire tantissimo dell'umanità di un uomo che sembra essere antipatico, scorbutico, ma con i suoi giocatori è riuscito a creare un'atmosfera fantastica. I giocatori del Nottingham Forest subiscono il Liverpool in campionato, ci perdono, e ci perdono anche ampiamente. È una squadra che non riescono ad arginare e a fermare. Però Brian Clough sdrammatizza, cerca di non far pesare la tensione di quello scontro di Coppa dei Campioni. È l'esordio del Nottingham Forest in una Coppa Europea. L'andata si gioca in casa, al City Ground, e ormai tutti i giornali titolano: sarà una goleada per il Liverpool, Liverpool passerà facile, chi affronterà il Liverpool nel prossimo turno? E invece, nonostante le difficoltà, il Nottingham Forest riesce a fare due gol. Ovviamente i giocatori del Liverpool, che hanno più esperienza, irridono i ragazzini del Nottingham Forest e gli dicono: ehi ragazzi con i denti di latte, ma secondo voi siete convinti che due gol vi basteranno per passare il turno? Ci vediamo ad Anfield. Anfield Road lo conosciamo tutti, è uno stadio in cui se sei l'avversario del Liverpool è difficile starci, soprattutto quando stai per entrare nello stadio e vedi quella scritta "This is Anfield" e poi c'è una marea rossa che canta "You never walk alone". È difficile fare risultato, e anche per i ragazzi di Brian Clough. Però cercando di stemperare la tensione, cercando di stare insieme, cercando di aiutarsi l'uno con l'altro, quel Nottingham Forest riuscirà a portare a casa un pareggio che gli che vale il passaggio del turno. È per la prima volta una squadra campione in carica viene eliminata al primo turno di Coppa dei Campioni, perché all'epoca c'era l'eliminazione a fase, c'era soltanto l'eliminazione di turni e l'eliminazione diretta fino alla finale, e non c'erano i gruppi. Per cui il Nottingham Forest va avanti, vince soffrendo tantissimo con il Colonia e si ritrova nella finale di Coppa dei Campioni. Una squadra che era in terza categoria si ritrova in finale, e contro il Malmo, un altro outsider. Però il Nottingham vince, vince bene quella partita e si laurea per la prima volta campione d'Europa, ed è un record straordinario. Una squadra che, partendo dal basso, dalla terza categoria, riesce ad arrivare al tetto del mondo. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. Nottingham Forest di Brian Clough si ripeterà anche l'anno successivo, battendo in finale l'Hamburgo campione di Germania. E questa conferma come squadra campione d'Europa dà al Nottingham Forest un record che ancora tutt'oggi non è stato mai eguagliato, ovvero quello di squadra che ha vinto più Coppe dei Campioni che titoli nazionali. E credo che in una storia così, è una storia così, con il calcio di oggi non si potrà mai ripetere, mai e poi mai ripetere. Sì, c'è stata quella dell'Leicester, però poi l'Leicester in Europa non è che abbia fatto, non si è andato lontanissimo, ecco. Invece Brian Clough con il suo Nottingham all'epoca riuscì veramente a fare qualcosa che nessuno poteva immaginare. Ed è il record di una squadra che parte dalla terza serie e arriva sul tetto d'Europa e a giocarsi poi la Coppa Intercontinentale, che non vincerà in entrambe le occasioni, però tanta roba. Così Brian Clough continua la sua carriera fino al 94. Ovviamente i risultati non sono, il calcio cambia, si evolve, ne abbiamo parlato nello scorso podcast di Football Coming Home. Il Nottingham Forest non raggiunge più grandi risultati, lascia nel 1994 e 10 anni dopo purtroppo verrà a mancare. Dopo la sua morte a Nottingham gli dedicano praticamente la qualunque: statue, vie, piazze, e anche lo stadio oggi si chiama City Ground Brian Clough. Ci sono ovviamente, c'è la Brian Clough i stand, insomma c'è la tribuna che è intitolata a lui, la curva che è intitolata a lui, insomma è ovvio che un uomo che ha portato nella mappa del calcio mondiale una piccola città come Nottingham viene ricordato come, non dico un santo patrono, ma quasi, ecco, quasi come Maradona col Napoli sostanzialmente, ma questa è un'altra storia. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci vediamo nella prossima puntata di Football Coming Home. Sono disponibile a ogni vostro consiglio se volete che racconti la storia di un personaggio in particolare o di una squadra, di un club, di un periodo. Siamo a vostra completa disposizione. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.